in primo piano. Buona domenica da Giulia Crivelli, ben trovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Alcuni si concentrano sulla riunione, chiamiamola così, del PD ieri, di pezzi del PD ieri a Roma per festeggiare, anche se non tutti hanno voluto usare questa parola, i 10 anni appunto della nascita del PD. Altri si concentrano sui temi economici e altri ancora su quelli dell'immigrazione e anche su quelli politici, nel senso soprattutto dell'imminente referendum. Sarà domenica prossima, che si terrà in Lombardia e in Veneto, è un referendum consultivo su alcune questioni che riguardano l'indipendenza di queste due grandi regioni. Il Sole 24 Ore anticipa in 2 pagine, con il titolo di copertina, ma anche alle pagine 2 e 3, tutte le misure che sono allo studio del governo, che domani varerà la manovra. Almeno 20 miliardi, cuneo e lavoro high tech, incentivi allargati. Come vi dicevo, titolo di copertina, e poi in modo molto dettagliato le 4 aree più importanti su cui si concentrerà la manovra correttiva: per la formazione, quindi imprese e lavoro; per la formazione, credito d'imposta sul 50% dell'intera spesa, una novità anche sulle crisi aziendali, sul pubblico impiego e sulla sanità. Ci sarebbe 1 miliardo in più, ma resta quello che viene definito il nodo super ticket, e vedremo come verrà risolto. Il Corriere della Sera ha 3 foto che sono dedicate alla partita di Serie A che c'è stata ieri, che come probabilmente tutti sapete è stata vinta dalla Lazio allo stadio della Juventus. Ed è stata una sconfitta, erano tantissime giornate che la Lazio la Juventus non perdeva in casa, erano esattamente 26 mesi. E poi c'è una fotografia, che ovviamente non è di ieri perché il derby sarà stasera, che anticipa il derby Milan-Inter, scusatemi, Inter-Milan, ospita l'Inter, che come avete sentito anche nel GR ha fatto anche già un record di biglietti e quindi di incassi. Il titolo principale però è dedicato, come vi dicevo, al vertice che c'è stato, l'evento, l'incontro, non so neanche io come chiamarlo, ieri a Roma. Il Corriere della Sera lo chiama feste, però PD, feste, assenze. Poi in realtà c'è stata anche una riunione di Forza Italia a Ischia, e anche qui la dichiarazione principale è quella di Berlusconi, che ha detto: se non avrò una maggioranza, se Forza Italia non avrà una maggioranza, mi ritiro. E poi un titolo di politica di esteri, perché sapete, non abbiamo ancora la certezza di quello che sta succedendo, però Raqqa, la capitale, quella che viene definita la capitale dell'ISIS, starebbe per cadere. Ultime ore a Raqqa, assediata. La Repubblica decide di parlare molto, perché poi ci sono molte pagine anche all'interno di questo... Di questo compleanno del PD. Veltroni: il PD deve unire. È stato molto applaudito l'intervento dell'ex segretario del PD Walter Veltroni, nonché anche ex direttore dell'Unità e ex di tante cose, che però appunto ha fatto un intervento molto applaudito anche secondo Repubblica e tutti i cronisti che c'erano, anche quello di Paolo Gentiloni, il premier Paolo Gentiloni, un po' meno quello di Matteo Renzi, e poi i grandi assenti Romano Prodi e Enrico Parisi. Un'intervista richiamata in prima pagina, molto interessante, di Del Rio, il ministro delle infrastrutture, che annuncia un piano da 30 miliardi per i trasporti. E poi una novità, sarebbe una grande novità per il nostro paese: le tessere dell'autobus potrebbero essere detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Una fotonotizia molto diversa, perché oggi è l'Urban Nature Day del WWF, e quindi un commento di Valerio Magrelli, ma anche una bella pagina che poi vedremo all'interno, su quanto sono verdi o quanto sono poco verdi le nostre città, se le città hanno fame di alberi. con la Repubblica in edicola come ogni domenica all'Espresso. In copertina c'è un disegno, chiamiamolo un'illustrazione, forse meglio addirittura una caricatura, di Virginia Raggi che evidentemente vestita come una Madonna, con tanto anche di corona intorno alla testa. Miracolati, oltre 100 consulenti per gli incarichi più strani, amici, lobby e suggeritori. Così Virginia Raggi gestisce il potere a 5 stelle, mentre Roma affonda nei debiti, quindi l'eterna crisi di Roma. Un'interessante apertura della Stampa, naturalmente questo titolo c'è anche sul Sole 24 Ore, che poi ha numerosi approfondimenti all'interno, però la Stampa si concentra proprio sui cosiddetti NPL, non performing loans, cioè letteralmente prestiti che non sono performanti, cioè che non verranno restituiti, noi li chiamiamo crediti deteriorati. Ma la cosa, oltre all'allarme che ha lanciato il governatore della Banca Centrale Europea Draghi, che ha ribadito il problema c'è, e il problema c'è soprattutto per le banche italiane, c'è quest'altro risvolto, e lo vedremo anche sul Sole 24 Ore. Sapete che i crediti deteriorati vengono rivenduti, sono una merce di scambio sui mercati finanziari. Ecco, allora, corsa ai crediti deteriorati italiani è un affare da 100 miliardi di euro. Le banche vendono con sconti ai fondi esteri. Alle pagine 2 e 3 della Stampa, però, un'intervista ad Asia Argento, firmata da Gianmaria Tammaro, sulla questione, naturalmente, Weinstein. Il produttore americano, il padre padrone della Miramax, che è forse la più importante società di produzione di cinematografica americana, e il titolo dell'intervista è «Io mangiata dall'orco e tradita dalle donne». Il riferimento è alle molestie sessuali che Asia Argento ha denunciato di aver subito da Weinstein molti anni fa, e poi alle reazioni che ci sono state quando lei appunto ha detto di aver subito queste molestie. Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Marta Cagnola ieri nella sua trasmissione commentando questa vicenda, nel senso che non mi sento di commentare, perché è una questione molto delicata. Non so se appunto come distribuire, se di distribuzione possiamo parlare, le colpe o le responsabilità in questi episodi di molestie sessuali o di favori sessuali dati in cambio di qualche cosa. Ci lasciamo però un attimo per una pausa, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Il Messaggero unisce quella che viene definita la festa Dem a Roma del PD senza Prodi per i 10 anni del Partito Democratico. Mette insieme questo con, dicevamo, le parole di Berlusconi, che ha mandato un videomessaggio, non era presente fisicamente, a Ischia, dove c'era una riunione di Forza Italia. Renzi, Berlusconi no a larghe intese, ma il congresso che veramente ci interessa, dovrebbe interessarci tutti, altro che quello del PD, è il congresso comunista che si apre mercoledì prossimo a Torino, a Pechino. È il 19° congresso del Partito Comunista Cinese, ne parla Romano Prodi nel suo intervento della domenica sul Messaggero. La leadership più forte della Cina cambia tutto. A differenza, ve ne leggo una piccola parte, ma è molto interessante, continua a pagina 18, a differenza di quanto avviene nelle democrazie occidentali, vi è la quasi certezza che le decisioni prese non saranno mutate almeno fino al prossimo congresso, cioè fra 5 anni. Anche se poco più di un cinese su 20 è iscritto al partito, esso rimane infatti il vero e unico centro di potere, e da esso strettamente dipendono sia l'esercito sia il governo. Nei primi 5 anni della presidenza di Xi Jinping, il potere del partito si è inoltre ulteriormente rafforzato, operando in presa diretta su tutte le componenti dello Stato e agendo in modo determinante sulle amministrazioni delle province, sulle imprese pubbliche e sul sistema finanziario e bancario. E a proposito invece non di certezze ma di sorprese dell'ultima ora, sempre dal Messaggero, una rivelazione, una piccola grande rivelazione di Umberto Mancini, il blitz all'ultimo minuto del vice ministro dell'economia Luigi Casero, che ha inserito nella norma della legge di bilancio che verrà varata domani una norma che sanzionerà i proprietari di bar, chi non accetterà il bancomat per il pagamento di un caffè. L'Avvenire, molto interessante questo titolo, all'interno c'è anche tutto un approfondimento su questo. Obiettivo fame zero. C'è infatti questo G7 agricolo che naturalmente è stato un po' trascurato da tutti. È un vertice a Bergamo dei grandi e si ovviamente ruota intorno alla FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione. E quello che i responsabili hanno spiegato dei sette grandi paesi hanno spiegato a questo vertice è che oggi si può fare se vogliamo. Bergamo, chiamati a confermare l'impegno per lo sviluppo globale, i vertici appunto hanno parlato, era presente anche il segretario generale della CEI Galantino, che ha anche usato queste parole: il cibo non sia merce. Fotonotizia dedicata però a Racca e appunto qui sono veramente notizie che dobbiamo monitorare minuto per minuto, perché appunto non si sa esattamente che cosa stia succedendo a Racca. La Verità, un'apertura completamente diversa, tutte le bugie dell'assassino Battisti, è una interessante, nel senso molto utile, perché appunto Battisti continua paradossalmente a sentirsi un perseguitato, Cesare Battisti, che in questo momento, qualche giorno fa, sembrava che l'estradizione dal Brasile verso l'Italia fosse più sicura, adesso è di nuovo diventata più incerta. Giacomo Amadori a pagina 7 riepiloga appunto tutte le bugie di Battisti. Berlusconi la spara grossa, il virgolettato "se perdo me ne vado" è invece il titolo scelto da Libero, con un commento di Vittorio Feltri che dice: caro Silvio, il problema non è evitare la sconfitta ma vincere davvero, occorre essere realisti. Il Giornale ha un titolo molto simile: vinco o mi ritiro, parla il Cavaliere. Berlusconi: nessuna alleanza con Renzi, voglio la maggioranza. E il tema appunto, e da qui anche l'editoriale di Vittorio Feltri, è che i sondaggi danno Forza Italia circa il 15%, mettiamo che ne guadagna altri di punti prima delle elezioni, però comunque non avrà la maggioranza, e se, visto che ha annunciato che non ci saranno intese con il PD di Renzi, sembra appunto difficile questa vittoria. Da qui per esempio il monito appunto di Vittorio Feltri a essere realisti, non evitare le sconfitte ma vincere davvero. Il Manifesto: la messa è finita, foto scattata ieri a Roma al Teatro Eliseo. Il Manifesto scrive: un mesto PD celebra il suo decimo compleanno, sigla la fine di una stagione segnata da sconfitte e molti abbandoni. La platea disertata da tutti i padri fondatori, presente solo Veltroni. Il Fatto Quotidiano ha un titolo dedicato alla legge elettorale, che viene definita il Fascistellum, anziché Rosatellum bis, che è il suo nome ufficioso. L'intervento è il Fatto Quotidiano ha già interpellato molti giuristi, ma questo oggi interpella il giurista Pellegrino, che dice: voti un candidato, ne eleggi un altro, ecco il trucco del Fascistellum, nominati tutti i parlamentari. Dalle pagine interne dei giornali vi segnalo la copertina di Imprese e Territori del Sole 24 Ore, perché c'è un interessante intervento, l'intervento della domenica sul Sole 24 Ore di Max Bergami, sull'alternanza scuola-lavoro. Avrete forse visto che venerdì ci sono state queste manifestazioni in tante città di studenti che protestavano, sostanzialmente mi è sembrato non tanto contro l'alternanza scuola-lavoro, che può essere una misura interessante di collegamento appunto tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, che attende tutti gli studenti prima o dopo, ma sulle storture e sul fatto che il lavoro che si fa alternandolo appunto alla scuola, quando non si è ancora finito il proprio percorso di istruzione, dovrebbe essere formativo, mentre a volte è tutto meno che questo. E quindi questo intervento, appunto, le ragioni dei giovani che chiedono futuro. La strategia è mettere in rete i progetti virtuosi, sostenere le scuole e seguire le aree dove l'industria è più debole. E a proposito di industria, il convegno a cui è stato della piccola industria di Confindustria, a cui è stato ieri il presidente di Confindustria Boccia, ce lo racconta Nicoletta Picchio, il digitale è il futuro della manifattura. E poi vi segnalo come ogni domenica la pagina di Sport e Business, e questa settimana è dedicata alla pallavolo. Parte la Superlega di volley maschile, 14 franchigie con il modello NBA. Il fatturato complessivo sale a 60 milioni e premia la svolta manageriale dei club. E sempre dal Sole 24 Ore vi dicevo la questione degli NPL. Eccoli qua, i grandi fondi americani che sono a caccia di questi crediti deteriorati, ce lo racconta Luca Davi con uno schema che spiega quali sono appunto i principali acquirenti di NPL in Italia. Private equity americani è già andato, pensate, un terzo dei 90 miliardi lordi ceduti. Lunedì attese le offerte per le sofferenze, cioè sempre gli NPL, di Banca Intesa e della REV. Una buona notizia, dopo la passerò anche ad Alessio Maurizi e a Carlo Gabardini, ma secondo me l'hanno già vista, a pagina 25 del Corriere della Sera, i signori del cibo buono. Sono stati assegnati i Bologna Award, cioè i premi di Bologna dedicati alla sostenibilità alimentare. È il futuro del pianeta. E tra l'altro ci sono due casi, quello di Stephen Ritz, che è un insegnante, che porta a scuola, questo è il titolo del suo breve profilo, la magia degli orti verticali. Una pianta ci insegna tutto. E poi di Michel Bakker, che è un olandese ora trasferitosi nella Silicon Valley in California, da 6 anni guida Google Food, cioè è il manager che sceglie il menù per tutti i dipendenti di Google e ci invita a provare la farina di caffè. Privilegiamo tutto ciò che si trova ai primi livelli della catena alimentare, soprattutto quando si parla di specie marine. Una curiosità. Pagina 28 del Corriere della Sera, Angelino Alfano, ministro degli esteri, interviene dicendo che l'italiano è una lingua da difendere e diffondere. E così mi diverte questo intervento, suppongo che l'abbia scritto lui, che non è esattamente un campione di bell'italiano secondo me, ma è divertente perché con tutti i problemi che abbiamo nelle nostre scuole, dove sicuramente bisognerebbe a ricominciare, credo, insistere di più sull'insegnamento di questa nostra splendida lingua, pare che il ministro degli affari esteri e il ministro degli esteri sia molto impegnato per promuovere la nostra lingua all'estero, quando poi appunto qui da noi è molto bistrattata. E poi vi segnalo, prima della pausa sul traffico, un bel pezzo di Ranieri Polese a pagina 37. Margaret Atwood, grandissima scrittrice canadese, ha vinto il premio della pace dei librai tedeschi, che è stato consegnato alla fine della Buchmesse, la più importante fiera del libro in Europa, che dice: Margaret Atwood e la letteratura, no, non cambia il mondo. Ed è un po' anche una risposta a un'intervista abbastanza fastidiosa, secondo me, che ha dato Andrew Wiley, grande agente letterario, a Repubblica qualche giorno fa, esprimendo tutto il suo disprezzo per scrittori come, che ha detto che non vale la pena di leggere, come Stephen King, che invece io più volte ho definito un grandissimo scrittore e ne sono convinta, e anche John Grisham. Questo era il parere di Andrew Wiley, che diceva anche: la letteratura cambia il mondo. Ecco, una vera scrittrice e non un agente o una critica dice no, non è così. E mi piacerebbe, probabilmente sono sicura che Margaret Atwood non darebbe un giudizio come quello di Andrew Wiley sui Stephen King e John Grisham. Ci lasciamo un attimo però per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Prima di passare ai supplementi domenicali, due segnalazioni, due post-it. Ricordiamoci di due cose. Intanto, domani scadono la scadenza per presentare le offerte per Alitalia, e quello che a me sconvolge è che oltre ai 600 milioni di prestito ponte già concessi ne sono arrivati altri 300. Questa è veramente una vicenda senza fine. Vedremo se domani le offerte che arriveranno, almeno una sarà accettata, e così forse veramente ci si avvia verso la soluzione della vicenda all'Italia, dell'odissea all'Italia. E poi un altro post-it mentale, ce lo ricorda solo l'Avvenire, che a poche ore, domani ci sarà questa importante decisione di Barcellona. Una riforma costituzionale non basterà a Barcellona, questo dicono gli esperti. Incognite però se Madrid sospende Puigdemont, che è il governatore della Catalogna. Poche ore dalla risposta della Generalitat sull'indipendenza, i giuristi si interrogano sugli effetti dell'eventuale imposizione dell'articolo 155 e i due fronti sono sempre più frammentati. E vedremo appunto domani cosa succederà, o se poi domani sarà la giornata decisiva. Vi dicevo i supplementi domenicali, cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola La Scure e prende spunto da una citazione da Vladimir Nabokov. Un'idea sceglie soltanto il manico, è l'uomo che decide se completare la scure e usarla. Vladimir Nabokov ha la sua fama affidata al romanzo Lolita, scrive Ravasi, ma in realtà fu anche autore instancabile di racconti, oltre che appassionato studioso di farfalle, pensate. Sotto il titolo Una bellezza russa, nel 2008 a Delphi tradusse la vasta produzione narrativa dello scrittore emigrato in Occidente, e da uno di quei racconti, dalla prosa sontuosa, abbiamo tratto questa battuta suggestiva. La denuncia è chiara. L'uomo imbraccia un'idea, che può essere anche positiva, la trasforma in ideologia, l'applica rigidamente alla realtà e la rende un'arma offensiva. È ovvio che Nabokov forse pensava al marxismo divenuto leninismo e poi sfociato in stalinismo. Non per nulla il titolo del racconto è La distruzione dei tiranni. Dobbiamo perciò essere sempre cauti nell'uso delle nostre idee, per non trasformarle in idee fisse, in manie, in pregiudizi. In quel caso, come suggeriva Kierkegaard, esse sono simili ai crampi ai piedi e il rimedio migliore è camminarci sopra. La copertina vera e propria però è dedicata sostanzialmente al Nobel per l'economia, con un ricordo del Nobel del 2000 a Daniel Kahneman, ma anche poi numerosi approfondimenti su quello di quest'anno, che è stato dato, come sapete, a Richard Thaler, che è un po' il teorico della spinta gentile in economia e non solo. Qui il titolo dell'articolo di Michael Lewis, che è l'incipit e il finale di un suo libro Un'amicizia da Nobel, in libreria il 19 ottobre per Raffaello Cortina, si intitola Un Nobel per ricordare un'amicizia. Vi segnalo poi il libro di Giovanni Bignami, il grande astrofisico da poco scomparso, grande astrofisico ma anche grande divulgatore, L'origine e la fine di tutto. Il titolo del libro è Le rivoluzioni dell'universo, è appena stato pubblicato da Giunti. L'opera postuma del grande astrofisico è impregnata della sua passione per l'universo e le sue rivoluzioni. E poi vi segnalo una recensione invece di Paolo Bricco a un libro di Luca Landò, che ha un curriculum molto vasto. È stato scienziato, ma anche divulgatore, poi direttore anche dell'Unità. E ora ha scritto questo libro che si intitola La cura, se l'Italia fosse un corpo umano. Il malato Italia e la cura necessaria, e si intitola la recensione di Paolo Bricco. La lettura, il supplemento del Corriere della Sera in edicola ogni domenica, come sempre affida la copertina a un artista, questa settimana è Davide Balula. All'interno le prime due pagine sono un interessantissimo intervento di uno scrittore americano residente a Istanbul che si chiama Elliot Ackerman, che ci racconta dal suo punto di vista di americano che ha trascorso molto tempo in Europa e soprattutto adesso vive a Istanbul, la crisi turca e dell'Europa ha tre radici. Quindi questo punto di vista sul logorio delle libere istituzioni e sulla svolta autoritaria pilotata da Erdogan. L'errore, secondo Ackerman, è credere che stia riemergendo una esotica vocazione orientale in Turchia. In realtà i fattori che minano la democrazia riguardano anche le società occidentali. L'attacco fondamentalista allo Stato laico, il contrasto fra spinte separatiste e centraliste, ne sappiamo qualcosa anche qui in Europa, appunto parliamo della Spagna ma anche dell'Italia, abbiamo detto del referendum di domenica prossima, il dilagare della corruzione. E poi una bella intervista di Luigi Ippolito, corrispondente da Londra del Corriere della Sera, a Tyler Brulé, che è come possiamo dire, un editore, ma anche un inventore di riviste, un sostenitore della, potremmo chiamarla, multicanalità dell'editoria. Cioè lui naturalmente crede moltissimo nella carta, ma la sua creatura più famosa, che è la rivista mensile Monocle, in realtà è integrata anche con una radio, quindi anche noi possiamo essere come gruppo un esempio di questa integrazione, di questa multicanalità. Ha anche una radio e poi naturalmente ha un sito web. Ora Tyler Brulé, che prima di Monocle si era inventato Wallpaper, rilancia con un settimanale stampato come un quotidiano e dice: i gruppi intelligenti punteranno sul digitale per gli smartphone, ma conserveranno i giornali. Oh Tyler, come sono d'accordo. E poi, molto interessante sempre sulla lettura, due lunghi articoli sulla riunificazione mancata, o forse la separazione mancata. Parliamo naturalmente della Germania, con una riflessione dopo le ultime elezioni politiche, perché sapete, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale e naturalmente anche dalla riunificazione del 1989, un partito di estrema destra è entrato, la AfD, è entrato nel Parlamento tedesco. Ultimissima segnalazione, la copertina di Robinson della Repubblica, che parla del vocabolario. Perché? Perché il dizionario Zingarelli compie 100 anni e quindi molti articoli, il titolo: il vocabolario, la tua voce, dai neologismi alle parole che rischiano di sparire. I dizionari non sono solo lo specchio della lingua italiana, ma anche dei cambiamenti del paese. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora una buona giornata, una buona domenica da Giulia Crivelli.